Germano Cis, siete pronti? Anni troppi, 75, nato nel 1940, all'inizio della seconda guerra mondiale, lavorato, fatto 36 anni in cooperativa, da dipendente e altri 18 da amministratore. E durante il lavoro, la mia vita, a 14 anni ho fatto un altro lavoro, ma quello era volontariato. Ho cominciato a fare l'operatore al cinema. Allora non c'era la televisione, non c'erano i DVD, non c'era niente, c'era il cinema parrocchiale. Il cinema era su pellicola. L'avete vista ancora la pellicola cinematografica? Ecco. Lì vedete il proiettore. E quindi anche lì altri 44 anni. Ho cominciato a 14, la vostra età, in gabina, quindi la giornata era piena. È stata la mia passione, devo dire la verità. Ecco, quello era il proiettore del cinema. Oggi la pellicola non c'è più da qualche anno, si usa l'hard disk e quindi in gabina non serve più nessuno. Arrivavano le pizze delle pellicole, si chiamavano pizze, erano dei rulli di pellicola, no? Che andavano unite su bobine, che erano circa di un'ora l'una. No? Si montavano nel proiettore e lì c'era tutto un giro speciale che si faceva nel proiettore, poi si smontavano e si mandavano via. Quindi alla gabina non si poteva, almeno i primi anni. La questione della luce, diciamo così, a quei tempi veniva data da un sistema di foto, come le saldatrici, negativo e positivo, no? Due stecche, quelle saldatrici sono in ferro, lì erano i carboncini, no? Che bisognava unire, si accendevano e mantenerli sempre alla stessa distanza. Ti si spegnevano e sullo schermo non vedevi più niente. Difatti, alle mie prime armi, all'età di questi, un giorno quello che era il titolare, aveva altri impegni, aveva 18 anni o 20, si capisce che impegni che erano. Ecco, mi ha lasciato lì, mi ha messo uno sgabello con sotto tutte le scatole delle pizze perché il finestrino era alto, non ci arrivavo su. E insomma, sta lì, a un certo punto avevo bisogno di andare al bagno, me l'ho fatta sotto ed è stato l'inizio. La mia vita lì è stata. Hai visto tu il film di Tondatore, Il Nuovo Cinema Sì, Paradiso? l'ho visto. Io ho fatto la stessa vita di quel protagonista là. C'era il Presente, l'ho parroco visto, in l'ho sala visto. col campanello. A ogni scena, un bacio e compagnia, quello che era in gabina metteva una carta nella bobina e lì andava. E Censura. te credo. Ma mica si proiettavano tutti i film in circolazione, eh? Neanche parlarne. Si montava il film, erano pizze, no? Sì, va Buco in certo. mezzo, bobina smontabile, si chiudeva dentro, si montava sulle bobine normali. Di solito erano 6, 7 in base alla lunghezza del film. Si giuntavano, vedendo di non sbagliare i rulli, perché sennò Sì, i titoli no. di testa ti venivano a metà e i titoli di coda all'inizio, no? E staccava e staccava. Logicamente la coppia, a lungo andare, tac e stacca, tac e stacca, era un fotogramma alla volta chi era bravo ad attaccarla. Dopo si creava, quando arrivava il momento dove si giuntavano i rulli, un certo salto di scena, era Vabbè, quello sì, logico, quel che certo, era non succede logico. certo con i DVD, no? Ah, beh. Era un'avventura allora fare il professionista. Quando è stato poi il periodo dei 17-18 anni, il richiamo della foresta si sentiva, ti dico il richiamo della foresta perché fa più grandi, hai capito cosa Sì, intendo, no? circa ho E capito. qualche ragazzina veniva anche su a far visita, insomma. Dov'è che era il cinema? Dove siete partiti voi adesso? Per venire qui, quello era il cinema parrocchiale. Lì lo vedi com'era allora, vedi quel quadro lì sotto? Lì sono passato i migliori anni della mia vita, perché mi piaceva, dico sincera verità. Quando vuole venire a trovarci e a vedere com'è Certo, diventato, è lo che accogliamo a sono braccia già stato in aperte. visita all'ambiente Ah e sì? lì vedo passare come in un film tutti i ricordi di allora. Ho Sacrificato. sacrificato e li sto sacrificando anche adesso, 60 anni della mia vita, tutte le domeniche, fra proiezionista del cinema e dopo fare il sacristano, tutte le domeniche della mia vita, l'estate tutte le sere. Era la mia passione. Era importante perché era l'unico cinema che c'era in valle. Il pomeriggio alle 3 si facevano per i ragazzi, c'era la sala piena. Il paese anche la domenica era pieno, non si muoveva nessuno, anzi qui a Beseca venivano dai paesi fuori, dai concei e compagnia. Qui. Allora, se togliamo dalla vita la televisione noi, immaginate cosa vuol dire. Togliamo le macchine, togliamo le moto, togliamo la televisione. La radio li avevano quei due o tre ambienti che c'erano, ricordo un'estate. Pomeriggio, allora si faceva alle 5, non alle 3 per i ragazzi. Insomma, era un film che era piuttosto monotono per i ragazzi, era un film sentimentale. Io ero solo, perché mi ha aiutato una ragazza in biglietteria e poi dico, mi arrangio da su e sento star di sopra e pinf e pom, porte che sbattono e pinf e pom. A un certo punto sono partito, sono sceso. Il primo che mi è arrivato a portata di piede, che usciva dal bagno, l'ho tirato un calcio dove non batte il sole, no? Sapete chi era? Sapete chi era quel ragazzo? Un certo Riccardo Sailly, direttore, secondo direttore d'orchestra italiano. Sì, che ricordi tanti, perché mi ricordo i primi anni, fino ai 5-6 anni, quando si andava alla scuola materna, che allora la scuola materna era la biblioteca. Verso la fine di aprile del 45, finita la guerra, noi avevamo qui, dove c'è l'Eurospiel, comando tedesco di valle, no? Ho cominciato a far su fagotti per incamminarsi verso la Germania. A un certo punto sono spuntati da riva tre caccia alleati, no? Che cercavano di mitragliare sta colonna, che era un po' di 3-4 camion, e parecchi a piedi questi tedeschi, no? E li ha mitragliati fuori Santa Lucia, per andare a Tiano di sopra, Tiano di sotto, quella zona lì che poi è stata la zona della battaglia di Garibaldi qualche anno prima, no? Ecco. Per fortuna la colonna si è infilata nel paese di Tiano di sotto, che allora non c'era circonvallazione, quindi non hanno potuto mitragliare per i residenti, insomma, no? Sono stati lì fino che i cacci, ma noi all'asilo, la più dura era come l'olio, perché venivano dal lago, ma rasa proprio, altezza delle case, no? Un rumore sordante. La maestra ci ha radunati, eravamo una ventina, ci ha portati in cantina, no? E avete sentito gli aerei? Un rumore di sti caccia. Chi poteva si è nascosto sotto la tonna qua del parroco che era venuto a trovarci. Avevamo 45-5 anni. E Maria, una delle cose che mi è rimasta impressa. E poi dopo la vita era dura, perché in quegli anni era miseria, era miseria, perché il lavoro non ce n'erano. Chi aveva qualche bestia in casa, le mucche, aveva almeno il formaggio e il latte. Chi non aveva quelle si andava a prendere il pane con la tessera. Più di tanto non si poteva comprare, poi vestiario, con toppe sui pantaloni dappertutto, perché non c'erano soldi. Cos'era la tessera? Era una tessera che dava il governo, perché allora c'era il fascismo all'inizio della guerra, no? Che per poter comprare il pane, ti staccavano un tagliando tutti i giorni, ti assegnavano in base alle persone che erano. Per l'importante allora era avere il pane e la farina. Il resto non so se lo segnava nemmeno. Oddio, chi aveva le bestie aveva un pezzo di formaggio e compagnia. Tutti avevano l'orto, qualcuno aveva i conili, le galline. Era vivere. Poi il problema di vita, il bagno. Chi ce l'aveva il bagno? Per il bagno se l'avevano, era nel cortile. Alzarsi la notte per andare a fare i bisogni, bisognava l'inverno uscire nel cortile. E mica c'era water e compagnia, c'era un buco. Che se si stava attento si cadeva pure dentro, no? Sotto c'era proprio la fogna, L'acqua in casa non c'era. Si andava alla fontana del comune con i secchi a prenderla. Per lavarsi, quando era il sabato, la tinozza in cucina a turno. E l'acqua si scaldava? Ah, sulla cucina. Almeno la legna c'era. Riscaldamento, neanche parlarne. Come ho detto prima, non c'era televisione, non c'era niente. E quando si cenava a pranzo, papà raccontava le sue avventure, perché lui aveva fatto la prima guerra mondiale, che qui era Austria, no? Tutti sapevano scrivere, sapevano leggere, quei tempi del 1915, si stava bene. Ad ogni modo, ecco, papà a un certo punto, quando sono spatriati in Boemia, però qui era il confine, no? Ecco, è rimasto qui per insegnare alle truppe tedesche i confini con l'Italia. La bella sera, lui e un suo amico da Valsugana, con questo plotone di austriaci, l'hanno accompagnato a Sonota. Si sono portati un paio di bottiglie di grappa, li hanno ubriacati e hanno passato il confine. Sono andati in Italia, da quelle montagne era Italia. Sono stati messi in prigione come disertori, cioè gli italiani li hanno presi per spie, li hanno fatti tornare indietro. Secondo me, passato il confine, ha buttato via il fucile e loro erano tedeschi, bisogna dire la verità. Per fortuna che la guerra l'ha vinta l'Italia, hanno potuto tornare a casa, sennò facevano la fine di Cesare Battisti e... la televisione che si sentiva raccontare intanto che si cenava. Si lavorava di immaginazione, perché allora bisognava lavorare di immaginazione. Anche quelle poche radio che c'erano in paese, parecchie radio, si ascoltava la voce e si immaginava. perché non vedendo nient'altro si costruiva la storia come ognuno poteva vedere i luoghi, poteva vedere prima si mangiava quel poco che c'era. Ricordo i primi tempi si mangiava tutti da un piatto, poi non c'erano neanche quelli. Se io adesso le raccontassi, per esempio, che papà è stato in America negli anni 30, no? Al tempo del proibizionismo, erano andati là a lavorare, solo che non erano stati ricevuti come noi riceviamo adesso quelli che sbarcano vestiti, erano 4-5 del paese. E per poter entrare negli Stati Uniti sono entrati dal Messico con l'aiuto dei Mamma Santissima e lavoravano in nero nelle fognature. Ma con l'aiuto della mafia italo-americana. Loro, il famoso giorno, il 14 febbraio, erano a Chicago, abitavano proprio dove c'è stato il famoso notte di San Valentino, dove hanno arrestato Al Capone, che è la roba che si vede nei film. Abitavano lì sopra, che poi l'avevano arrestato. L'unico modo di poterlo arrestare era stato per evasione fiscale, né Al Capone, se no lo riuscivano. Loro erano lì, non l'hanno visto. Erano questi i racconti, ha fatto 10 anni in America. C'era sempre qualcosa da ascoltare. E dai, Era la televisione del tempo. insomma, dopo la crisi della guerra siete riusciti a rimettervi in piedi pian piano Dopo la anche. Seconda Guerra Mondiale Certo. sono arrivati i favolosi anni 50, 60. Certo. Si vedeva qualche moto. Gli ultimi anni di scuola, andavamo a scuola, ti hanno lì sotto, lì c'erano le post elementari. Che li chiamavano la settima, l'ottava e la nona, che poi era sempre una quinta elementare ripetuta, riscaldata. Si andava in bicicletta d'inverno, con tanta di neve che allora ne veniva, non c'era mica il pulmino a prenderci a casa. E poi dopo, un po' di lavoro, i primi anni di lavoro percepivo 1.000 lire al mese che erano regalate, perché l'apprendistato non avevi diritto per 3 anni di essere stipendiato. Capito com'era? Ti davano 1.000 lire al mese, che a quei tempi, 1.000 lire negli anni 54-55, non so come si potrebbe dire adesso, i stipendi si aggiravano, per dirle, sui 30-40 mila lire al mese. Ecco. Erano regalate. La fortuna è stata però che su quelle 1.000 lire pagavano i contributi. E allora ha servito per la pensione. Certo. Ecco. Però dopo 3 anni ti potevano. Ah, Tanto non bene. costava niente e ne riprendevano un altro.